Ho letto in un periodico evangelico di venerdì 7 ottobre 1994 il seguente commento. 10 anni ora sono la Chiesa evangelica in Germania, che come è noto è la Chiesa più numerosa e, umanamente parlando, la più importante Chiesa protestante in Europa, commissionò un'inchiesta tra i suoi membri, in cui veniva posta la domanda seguente: che cosa significa essere un cristiano evangelico? Che cosa lo caratterizza? Da che cosa lo si riconosce? Virgolette punto. L'intervistato poteva scegliere tra 10 risposte possibili, indicate nel questionario. Per l'85% la sua caratteristica principale è essere battezzato, per l'80% essere confermato, per il 79% sforzarsi di essere una persona corretta e affidabile, per il 76% seguire la propria coscienza, per il 55% vivere secondo i 10 comandamenti, per il 25% leggere la Bibbia. Pur essendo trascorsi quasi 2000 anni dalla nascita di Cristo, l'opinione riguardante la definizione di un cristiano è, tra i figli di Dio, sempre frammentaria, soggettiva, indefinita. Nonostante evidentemente, ogni generazione deve riscoprire e far proprie la basi della fede del cristianesimo. In questo scritto evidenzierò 3 caratteristiche fondamentali di un cristiano. Prima, però, consideriamo chi non lo sia. Un cristiano non è colui che crede in Cristo, altrimenti tutti i buddisti o i maomettani, cattolici, testimoni di Geova, che lo ritengono un profeta, Dio o un Dio inferiore, sarebbero tali. Non è neppure colui che lo invoca, altrimenti tutti gli indovini e i chiromanti sarebbero cristiani. Non è neppure colui che ha il giusto credo, altrimenti sarebbe il suo credo salvarlo. Non è neppure colui che appartiene ad una chiesa con una sana dottrina, altrimenti lo scopo di questi cristiani non è colui che prega, altrimenti ogni persona religiosa sarebbe salvata perché in ogni religione si prega. Non è colui che si presta per delle opere sociali, perché senza l'amore, cioè Cristo, ciò non vale nulla. Non è colui che legge la Bibbia, altrimenti ogni studioso biblico sarebbe un cristiano. Mentre è noto a tutti che vi siano persone istruite nella Bibbia, teologi di fama mondiale, ma che non credono a quello che in essa viene affermato. Chi è, allora, un cristiano? Per altri, egli è colui che è riconoscente verso Dio, colui che è continuamente dominato dal senso della sua dipendenza dal datore di ogni bene, colui che ama il prossimo disinteressatamente, che è in pace con tutti, felice nella conoscenza che esista un Dio. Costui non è torturato dalla malizia, non è schiavo dei piaceri dei sensi, non cerca la lode, non teme il bisogno, né il dolore e la morte. Ma è sufficiente? Giovanni Wesley, il padre del metodismo, vissuto nel XVIII secolo, trascorse i primi 10 anni della sua vita, accettando gioiosamente gli insegnamenti religiosi che gli erano trasmessi. I 6 o 7 anni successivi li trascorse studiando, diventando diligente più di tanti altri. Dedicava ore alla meditazione, leggeva la Bibbia e libri religiosi, andava in chiesa, recitava le preghiere, digiunava 2 volte la settimana e visitava i poveri, gli ammalati e i carcerati regolarmente. La domenica presiedeva almeno 3 culti. Di pomeriggio aveva il catechismo per i bambini, la sera aveva una riunione in casa sua. Predicava il Vangelo, annunziava la salvezza per fede, ma non era un cristiano. Dobbiamo quindi chiarire chi sia un cristiano. Con queste riflessioni non intendo giudicare se la persona sia perduta o salvata, perché solo Dio conosce quelli che sono suoi, 2 Timoteo 2:19. Desidero solo definire le caratteristiche di un cristiano. L'Apostolo Paolo, nella prima lettera ai Tessalonicesi, presenta le 3 caratteristiche di un vero cristiano, senza le quali nessuna persona ha il diritto di definirsi tale. Vi siete convertiti dagli idoli a Dio per servire il Dio vivente e vero e per aspettare dai cieli il Figlio suo che egli ha risuscitato dai morti, cioè Gesù che ci libera dall'ira imminente. 1 Tessalonicesi 1:9. Queste riflessioni sono un messaggio di verifica e di sprone. Vediamo allora le 3 caratteristiche. 1. Vi siete convertiti dagli idoli a Dio. 2. Per servire il Dio vivente. 3. Per aspettare dai cieli il suo figliuolo. 1. Il cristiano è colui che si converte dagli idoli a Dio. Il cristiano cambia l'espressione per quello che riguarda il suo modo di adorare Dio. Nessuno di noi, per natura, adora Dio nel modo giusto. Qualsiasi religione ci porta lontano dalla volontà di Dio. Anche se qualcuno è nato e ha vissuto con dei valori cristiani, se non è nato di nuovo non potrà adorare Dio in modo conveniente. Succede ciò che è successo agli ebrei, essi avevano la giusta legge, ma senza la conversione non erano in grado di adempierne lo spirito. L'interesse religioso era solamente un reparto della vita. A 21 anni, quando divenni un figlio di Dio per la fede in Gesù, non ero ateo. Avevo creduto fermamente a ciò che mi era stato insegnato. Osservavo le regole religiose con tutto il mio cuore. Spesso andavo da solo in una chiesa abbandonata, dove formulavo delle preghiere a Dio, esprimendogli il mio desiderio di conoscerlo. Ero religioso, assetato di Dio, ma perduto. Credevo in Dio anche se era indefinito per me, ma ero profondamente triste, pieno di incertezze. Il futuro appariva come una cosa proibita e senza alcuna speranza. In questo stato, dalla profondità del mio essere, invocai Gesù Cristo. Da allora il mio rapporto con Gesù Cristo cambiò. Tutto era nuovo, ogni cosa era ragione di ringraziamento, di lode ed adorazione. Sì, il vero cristiano è colui che passa dalla preghiera di richiesta alla preghiera di lode, è colui che ringrazia Gesù Cristo per avergli dato la possibilità di una seconda vita piena di lode. Non esiste una vera lode per chi non sia nato di nuovo. Colui che si converte riconosce di aver servito degli idoli e allaccia una relazione intima e personale con Gesù, il quale entra come padrone in tutti i compartimenti della sua vita. Questa è la nuova via. Questo significa convertirsi dagli idoli a Dio. 2. Il cristiano è colui che serve il Dio vivente. Una volta che una persona ha conosciuto il Dio vivente, è normale che lo voglia servire. Perché? Perché lo ama. E perché lo ama? Perché, essendo stato amato per primo, di riflesso, egli desidera servirlo, per riconoscenza. Una persona che non ha uno spirito di servizio, per riconoscenza verso Dio, o non è cristiana, o è ingrata. E non vi è peccato peggiore dell'ingratitudine. Ad un uomo, che aveva salvato una dozzina di persone in un naufragio, fu chiesto quale fosse la cosa che lo avesse scioccato di più. È stata l'ingratitudine della gente, rispose. Servire Dio diventa la risposta più normale del vero credente. Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente. Romani 12:1. Il credente dimostra la sua disponibilità, non solo servendo Dio quando è costretto dalle circostanze, quando deve frequentare le riunioni, ma anche e forse soprattutto nei momenti di libertà, quando egli sarebbe libero di andare dove vuole. Quando siamo liberi di andare dove andiamo, qual è il genere di compagnia con la quale amiamo stare? Dove vanno i nostri pensieri quando sono liberi di sbizzarrirsi? Quando i pensieri del lavoro, degli affari o della scuola ci abbandonano temporaneamente e noi possiamo pensare a ciò che vogliamo fare, invece che a ciò che dobbiamo fare, che cosa pensiamo veramente? La risposta a queste domande ci può dire molto su di noi stessi, più di quanto possiamo immaginare. Il cristiano è colui che serve Gesù Cristo nei doveri d'ogni giorno, sia che guidi la macchina, sia che lavori in fabbrica o in ufficio, sia che vada a far la spesa, come anche nei piaceri che la vita gli offre. Non vi è un momento più importante di un altro. Dobbiamo avere la stessa consacrazione o impegno, sia nelle cose spirituali che in ogni altra occupazione secolare. Solo così si può servire il Dio vivente. 3. Un cristiano è colui che aspetta dai cieli Gesù. Questo terzo aspetto è un elemento naturale, di riflesso alla conversione. Dopo molti anni di fede cristiana, sono arrivato alla conclusione che chi non aspetta il ritorno di Cristo sia, quasi certamente, una persona che non abbia la fede cristiana. È vero che vi sono alcuni credenti che non aspettano il ritorno di Cristo, ma accetto questo stato come un periodo transitorio di immaturità, o dovuto all'esuberanza della giovinezza. Non credo, però, che possa esistere un cristiano che non aspetti più o meno intensamente il ritorno di Cristo. Anzi, più volte ho riscontrato che chi non attende il ritorno di Cristo non sia nato di nuovo. Perché mi esprimo così duramente? Perché l'Apostolo Paolo parla dello stato d'animo derivante dall'attesa del ritorno di Cristo come di una della tre virtù fondamentali di un cristiano. Ora dunque queste tre cose durano: fede, speranza, amore. 1 Corinzi 13 e 13. L'Apostolo usa decine e decine di volte la parola speranza, riferendolo allo stato d'animo d'aspettazione del cristiano. Infatti la parola speranza non è sinonimo di speranziosità, ma di attesa. E l'attesa è riferita al ritorno di Cristo e della sua giustizia. Così, tutte le volte che noi leggiamo la parola speranza, dobbiamo riferirla all'attesa. In questo modo molti passi della Scrittura diventeranno comprensibili. Che cosa produce in noi questa speranza? Che effetto ha nella nostra vita il desiderio del ritorno di Cristo? Vedremo 6 aspetti positivi e 1 negativo di questo stato d'animo. 1. Romani 5, 1 a 5. La speranza non rende confusi. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, mediante il quale abbiamo anche avuto per la fede l'accesso a questa grazia nella quale stiamo. E ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio, non solo, ma ci gloriamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce pazienza, la pazienza esperienza e l'esperienza speranza. Or la speranza non delude, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori, mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato. Una delle caratteristiche del mondo è la confusione. Vi sono guerre, ingiustizie e tante altre cose orrende. Anche noi ci troviamo in questo turbine di sofferenza. Ma la speranza che le cose un giorno saranno sistemate non ci confonde né ci delude. Perché la speranza non confonde? Perché l'amore di Cristo è stato sparso nel cuore di chi ha posto fede in Lui. Cioè, in qualsiasi situazione egli si trovi, sa di essere amato. Sa di essere amato nella cattiva e nella buona sorte, nell'abbondanza e nella penuria. Non sono tanto le circostanze a rivelare l'amore di Dio, quanto il fatto che Dio stesso abbia dato suo Figlio, affinché chiunque crede in Lui abbia la vita eterna. Dio non si è preoccupato principalmente di un bene passeggero, ma ha voluto risolvere alla radice il vero problema dell'uomo, la perdizione della sua anima. Ora, se Dio ha amato l'uomo prima ancora che questi lo cercasse, quanto più l'amerà ora che Gesù è morto per lui. Vivere con questa consapevolezza significa trascorrere la propria esistenza con la certezza divina che ogni cosa cooperi per il bene di chi teme Dio. Ogni cosa! Facile dirlo, difficile comprenderlo. Eppure, in questa situazione di non chiarezza, chi si confida in Gesù Cristo non rimane confuso. 2. 1 Giovanni 3, 1 a 3. La speranza purifica. Vedete quale amore ci ha manifestato il Padre, dandoci di essere chiamati figli di Dio. E tali siamo. Per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui. Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è stato ancora manifestato ciò che saremo. Sappiamo che quando Egli sarà manifestato saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. E chiunque ha questa speranza in Lui si purifica come Egli è puro. Purificare vuol dire togliere quelle cose che non sono buone. Noi sappiamo che, quando Gesù verrà, saremo simili a Lui. E questa attesa, questa speranza ci aiuta a diventare sempre più santi. Ho notato che, spesso, siano proprio i cristiani che non hanno forte il desiderio del ritorno di Cristo a procedere, nel cammino della loro esistenza, con un passo poco regolare ed equilibrato. Il ritorno di Gesù ci ricorda del tribunale di Cristo, ricorda ai figli di Dio che saranno esaminati circa ogni loro opera. Se questo pensiero occupasse costantemente la loro mente, allora essi sarebbero più stimolati a ritirarsi da ciò che Dio condanna. La santità di chi teme Dio non è quella che combacia con la sua logica, quella che più gli aggrada. Il salmista pregò: guidami nella tua verità e ammaestrami. Salmo 25,5. Gesù pregò il Padre per i discepoli: santificali nella tua verità, la tua parola è verità. Giovanni 17,17. Risulta evidente che nel mondo vi sia una verità che non è la verità. Diversamente, Gesù non avrebbe pregato il Padre di santificare coloro che credevano in Lui, di aiutarli ad abbandonare ciò che sia sbagliato, ubbidendo alla sua verità. La verità di Gesù Cristo spesso non combacia con la verità del mondo, e questo spiega come molti non riescano a comprendere il Vangelo. Ma chi ha posto fede in Cristo, avendolo accettato come la via, la verità e la vita, adeguerà il proprio cammino secondo i parametri morali della parola di Dio. 3. 1 Pietro 3, 14-15. La speranza produce una testimonianza. Se poi doveste soffrire per la giustizia, beati voi! Non vi sgomenti la paura che incutono e non vi agitate, ma glorificate il Cristo come Signore nei vostri cuori. Siate sempre pronti a render conto della speranza che è in voi a tutti quelli che vi chiedono spiegazioni. Spesso un figlio di Dio si chiede come testimoniare. Molti cristiani hanno nel loro cuore un forte desiderio di essere dei testimoni, ma si sentono imbarazzati perché si vergognano di certi metodi. Ebbene, un cristiano che attende il Signore è colui che principalmente testimonia. Abbiamo detto che la speranza ci aiuti a dare delle risposte ai problemi della vita, che ci spinge a non comportarci con iniquità, come tutti. Tutto questo non passa inosservato al prossimo e, alla fine, davanti alla nostra perseveranza, ci verrà chiesta la ragione del nostro comportamento e noi, con dolcezza e rispetto, testimonieremo della nostra fede nel Dio che opera ora, in questa vita, e della nostra fede delle cose future. Il cristiano è colui che ama la vita, gode abbondantemente di tutto ciò che Dio gli somministra copiosamente, ma attendendo qualcosa di meglio. Vive in questa vita sapendo d'esservi di passaggio, e la vive come un pellegrino, e non come proprietario della vita stessa. Possiede dei beni, ma il suo cuore non si lascerà sopraffare da un amore smoderato. Un cristiano ama talmente il prossimo che è disposto ad essere preso in giro, ad essere isolato, ad essere abbandonato anche dai familiari, pur di invitarli a porre fede in Gesù Cristo. La gioia della salvezza delle anime è più forte del dolore e della persecuzione. Un aguzzino stava torturando un cristiano, disprezzandolo. Tu dici che il tuo Dio è potente. Io sono più potente di te e del tuo Dio. Perché ti sto torturando? No, rispose il cristiano, sono io il più potente. Mentre tu mi odi e mi torturi, io ti amo. Non a caso, molti aguzzini si sono arresi all'amore di Gesù. La speranza del cristiano è una testimonianza capace di spezzare i cuori più duri. 4. 1 Tessalonicesi 4:13-18. La speranza consola. Fratelli, non vogliamo che siate nell'ignoranza riguardo a quelli che dormono, affinché non siate tristi come gli altri che non hanno speranza. Infatti, se crediamo che Gesù morì e risuscitò, crediamo pure che Dio, per mezzo di Gesù, ricondurrà con Lui quelli che si sono addormentati. Poiché vi diciamo questo fondandoci sulla parola del Signore, che noi viventi, quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati. Perché il Signore stesso, con un ordine, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo, e prima risusciteranno i morti in Cristo. Poi noi viventi, che saremo rimasti, verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria, e così saremo sempre con il Signore. Prima o poi, se non moriamo giovanissimi, vivremo l'esperienza della separazione da qualche nostro caro. La morte rimane e rimarrà sempre un'esperienza dolorosa, se non traumatica. Per chi non ha speranza, la morte è la disperazione più profonda. Più profondo è il legame, più profonda è la disperazione di non vedere più la persona cara. Più si hanno dei beni, più si soffre di doverli lasciare. La speranza di un cristiano, cioè il ritorno di Cristo, rimane una consolazione non indifferente. Dio invita coloro che gli appartengono a consolarsi che un giorno saranno tutti riuniti con Gesù. Se non credo al ritorno di Cristo, come posso consolare qualcuno? Se la tomba è la fine di ogni cosa, che parole di conforto posso avere? Ho avuto occasione di predicare ad alcuni funerali dove erano presenti molte persone religiose, ma quando chiedevo se credevano di rivedere il loro caro, vedevo nei loro occhi molto scetticismo. Eppure pregavano Dio, Gesù Cristo, la Madonna e i santi. Che fede avevano? Non certamente quella cristiana. Un cristiano è colui che crede che la vita vada oltre la tomba, che è consolato dalle parole di Cristo. Come disse Paolo, se noi speriamo in Cristo solo in questa vita, noi siamo i più miserabili di tutti gli uomini. 1 Corinzi 15 e 19. 5. Romani 12, 11, 12. La speranza rende allegri. Quanto allo zelo, non siate pigri, siate ferventi nello spirito, servite il Signore, siate allegri nella speranza, pazienti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera. Spesso, passiamo giorni neri dove sembra che tutto vada storto, dove pare piovere sul bagnato. A volte siamo abbattuti e non sappiamo il perché. Ebbene, la speranza del cristiano produce allegrezza, perché qualsiasi cosa possa succedere in questo mondo, nulla, e poi nulla, potrà vietare a Gesù di tornare per portare in cielo chi ha posto la fede in Lui. Il cristiano si rallegra nella speranza. Il cristiano parla della speranza. Il cristiano medita sulla speranza. Il cristiano si consola con la speranza. Perché? Perché Cristo ritornerà per portarlo in cielo. L'argomento del ritorno di Cristo per un cristiano non è un discorso puramente religioso e formale, ma un motivo di gioia. Sta scritto: la gioia stessa può finire nel dolore. Proverbi 14:13. In effetti, tante gioie che noi ritenevamo tali nel tempo non si sono rivelate in realtà come tali. Ma chi si rallegra del ritorno di Cristo non sarà mai deluso. 6. La speranza produce fede e amore. Noi rendiamo grazie a Dio e Padre del Signor nostro Gesù Cristo, pregando continuamente per voi, perché abbiamo sentito parlare della vostra fede in Cristo Gesù e del vostro amore verso tutti i santi, a motivo della speranza che è riposta per voi nei cieli, di cui avete già sentito nella parola della verità. Ci sono situazioni e aspettative che producono sentimenti negativi, ingiustizie, desiderio di vendetta. Colui che attende il ritorno di Cristo ha una fede positiva, perché attende il trionfo della giustizia. Ed è animato da un sincero amore, perché aspetta il suo Salvatore. Chi possiede queste virtù viene liberato da quelle inclinazioni tipiche di ognuno: impurità, dissolutezza, idolatria, magia, inimicizie, contese, gelosie, ire, risse, divisioni, sette, invidie, omicidi, ubriachezze, diottonerie e cose simili. Poiché in lui abita lo Spirito Santo, egli avrà i frutti dello Spirito: amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine, autocontrollo. I sociologi cercano sempre nuove alternative per aiutare i giovani ad avere obiettivi sani, ma finché non considereranno il ritorno di Cristo non solo come un atto di fede, ma anche come un'arma potente contro la corruzione, i loro sforzi saranno sempre inattesi. L'aspetto negativo del ritorno di Cristo. Prendiamo in esame la cosa negativa che il ritorno di Cristo potrebbe produrre. Leggiamo nel discorso profetico che Gesù stesso fa per il suo ritorno, in Matteo 24, 43-51, 25-1-5. Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il vostro Signore verrà. Ma sappiate questo, che se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte il ladro deve venire, veglierebbe e non lascerebbe scassinare la sua casa. Perciò anche voi siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il Figlio dell'uomo verrà. Quale mai il servo fedele e prudente che il padrone ha costituito sui domestici per dare loro il vitto a suo tempo? Beato quel servo che il padrone arrivando troverà così occupato. Io vi dico in verità che lo costituirà su tutti i suoi beni. Ma se egli è un servo malvagio che dice in cuor suo: il mio padrone tarda a venire, e comincia a battere i suoi conservi, a mangiare e bere con gli ubriaconi, il padrone di quel servo verrà nel giorno che non sa, l'aspetta, nell'ora che non sa, e lo farà punire a colpi di flagello, e gli assegnerà la sorte degli ipocriti. Lì sarà il pianto e lo stridor dei denti. Allora il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini, le quali, prese le loro lampade, uscirono a incontrare lo sposo. 5 di loro erano stolte e 5 avvedute. Le stolte, nel prendere le loro lampade, non avevano preso con sé dell'olio, mentre le avvedute, insieme con le loro lampade, avevano preso dell'olio nei vasi. Siccome lo sposo tardava, tutte divennero assonnate e si addormentarono. Che cosa hanno in comune le parabole del servo e delle 10 vergini? Che il padrone sposo tarda a tornare. Sì, quando la scrittura si riferisce al ritorno di Cristo, esso è visto nell'ottica del ritardo. Ciò non significa che egli non sia puntuale, ma dall'ottica umana, che il suo ritorno sia atteso da ormai tanto tempo. Cosa produce in certe persone questo apparente ritardo del ritorno di Cristo? Alcuni diventano malvagi, altri si addormentano. Ecco il pericolo che produce il ritorno di Cristo. Alcuni figli di Dio si demoralizzeranno e cominceranno a vivere una vita dissoluta. Altri si stancheranno e si addormenteranno, cioè non saranno più attivi. Non solo. Leggiamo ancora nel discorso profetico di Gesù: allora vi sottoporranno a supplizi e vi uccideranno, e sarete odiati da tutte le genti a causa del mio nome. Allora molti si scandalizzeranno, si tradiranno e si odieranno l'un l'altro, e sorgeranno molti falsi profeti, e ne sedurranno molti. E perché l'iniquità sarà moltiplicata, l'amore di molti si raffredderà. Matteo 24:9-12. L'attesa di Cristo mette in evidenza la sincerità della fede e dell'amore dei figli di Dio. Leggevo un episodio su di un calendario cristiano molto interessante. Un vecchio doganiere abitava in una casetta che serviva da ufficio per il pagamento del pedaggio. All'entrata di un ponte, sopraggiungendo la notte, egli abbassava la sbarra e si coricava vicino alla porta. Una sera, un viaggiatore venne a bussare per chiedere un lascia passare. «Vengo subito», rispose il custode. Poiché tardava ad aprire, il viaggiatore bussò di nuovo. Stessa risposta. «Vengo subito». Ma il doganiere non si faceva vedere. Alla fine il viaggiatore perse la pazienza. Sforzò la porta della capanna e gridò: «Come mai da un quarto d'ora continua a rispondermi «vengo subito»?» «E non si fa vedere?» Il vecchio si alzò precipitosamente, scusandosi. «Vede», gli disse, «sono talmente abituato a sentir bussare alla porta che, perfino dormendo, rispondo sempre: «vengo subito». Così è del ritorno di Cristo. Tanti figli di Dio si sono talmente abituati a sentire parlare del suo ritorno che oramai fanno un'automatica professione di fede, senza che vi sia, da parte loro, un vero coinvolgimento. Hanno la forma della pietà, ma non la sostanza. Il ritorno di Gesù è uno dei temi fondamentali per il cristiano. Il ritorno di Gesù è la speranza del cristiano. Che Dio non permetta che ci assuefacciamo al messaggio del ritorno di Cristo, al punto d'abituarci a parlare del suo ritorno, anche se stiamo dormendo. Hai tu nel tuo cuore il vero desiderio del ritorno di Cristo? Il ritorno di Cristo, per te, produce una vita pari a quella d'uno che attende? Quando scoppiò l'ultima guerra mondiale, molti uomini furono chiamati alle armi. Tra questi c'erano dei fidanzati e degli sposati. Le loro donne erano a casa, in attesa del loro ritorno. Mentre attendevano il ritorno dei loro cari, si occupavano delle faccende della vita, ma i loro sentimenti erano sempre verso il loro compagno. Non allacciavano nessuna relazione sentimentale, perché sapevano che avrebbero tradito colui che amavano. Questa era attesa. Altre donne invece non aspettarono il ritorno della persona amata e si impegnarono sentimentalmente con altri uomini. Al ritorno del loro caro erano confuse più che mai. Attendere Gesù significa occuparsi delle cose della vita, ma non lasciarsi sedurre da altri movimenti religiosi. Significa non dare il cuore ad altre divinità, non allacciare nessun rapporto di fede che possa essere offensivo per Gesù Cristo quando ritorna. Il primo comandamento ordina a chi crede in Gesù Cristo di non avere altri dii nel suo cospetto. Con questo comandamento, l'Eterno Dio condanna qualsiasi fede religiosa che non abbia come unico oggetto e centro di culto il Dio che si è rivelato sul Monte Sinai. Poiché viviamo in una società definita cristiana, riporto una riflessione di Tommaso d'Aquino in relazione all'idolatria. Punto nel significato letterale indica il culto degli idoli. In senso proprio l'idolatria è l'attribuzione del culto supremo, dovuto a Dio, a una falsa divinità, alla sua immagine, al suo simbolo. In senso più ampio si può intendere anche oggi per idolatria ogni culto vizioso prestato alle creature, in quanto il culto spetta esclusivamente a Dio. Poi continua col dire non solo l'idolatria è peccato, ma uno dei peccati più gravi, in quanto è prestare il culto riservato solo a Dio a chi non si deve, cioè a qualche creatura. Com'è possibile oggi ancora venerare immagini, statue e rendere il culto a delle creature? Chi si definisce cristiano non può macchiarsi di questi peccati, anzi, insegnerà anche di abbandonare tali pratiche a costo di perdere l'amicizia e gli affetti più cari. Forse non hai commesso adulterio spirituale, ma sei tentato per la malvagità che ti circonda a tirare i remi in barca, a rilassarti, perché, tanto, non c'è nulla da fare. Gesù non ci ha ordinato di risolvere i problemi del mondo, come non ci ha comandato d'amare tutto il mondo. Il volere di Dio è che chi attende il ritorno di Gesù abbia una vita nuova e serva il suo prossimo con una naturalezza scaturita da questa sua nuova identità, vivendo come se egli non tornasse mai, ma contemporaneamente pienamente cosciente del suo imminente ritorno. Conversione, servizio e attesa fanno di un figlio di Dio un vero cristiano. Poiché siamo stati salvati in speranza, or la speranza di ciò che si vede non è speranza. Difatti, quello che uno vede, perché lo spererebbe ancora? Ma se speriamo ciò che non vediamo, l'aspettiamo con pazienza. Romani 8, 24-25. Se siamo figli di Dio, se siamo al suo servizio, aspettiamo il ritorno di Cristo e la sua giustizia. Con pazienza. Conversione. Servizio. Attesa. Novembre 1994. Maggio 2003 Ellero.